il pensiero musicale contemporaneo tra presente e memoria. Incontri con i compositori del nostro tempo, di Emanuele Pappalardo, Silvano Bussotti. Se uno vi è fra i compositori della nuova musica che pare incarnarne discordanti e sottacuti appelli, inesausta passione ostentatoria e strabiliante sincerità espressiva, intrepida, vorace ricerca di originalità e culto aristocratico della forma, nostalgia di tutte le abbandonate maniere del far musica e curiosità di ogni più legittimo e illegittimo futuro, quel compositore è senza dubbio alcuno il fiorentino Bussotti, sul quale in anni recenti, dopo il suo ingresso, non si saprebbe il più vistoso e sensazionale nella vita musicale italiana, preceduto da un veto di coriacea ottusità e iniqua soperchieria, se ne sono scritte, come era giusto attendersi, davvero delle belle. Parve che il colore della cronaca e della critica, che arrivò ad interessare secondo il gioco settori impermeabili a qualsiasi fenomeno musicale, la sbandierata diversità delle interpretazioni, il carnevale dei giudizi, riflettessero o addirittura mimassero qualche poco di quella incandescenza vitale. Così, alla fine degli anni Sessanta, Mario Bortolotto ci introduceva ad un suo saggio critico su Silvano Bussotti. E nel ventennio che ci separa da questo saggio, Bussotti ha tenuto fede alla personale, intrepida, vorace ricerca di originalità, come testimonia tutta la sua produzione artistica, non solo quella musicale in senso stretto, in quanto Bussotti è sì compositore, ma anche regista teatrale, scenografo, costumista, un po' attore, oltre che interprete di alcune sue musiche, didatta e finissimo critico. Per tentare di affrontare alcuni aspetti di questa poliedrica personalità, lo incontriamo in una calda mattina primaverile, nella sua villa di Genazzano, a pochi chilometri da Roma, e incominciando dal rapporto con i primi insegnanti. Posso dire con tutto il tempo trascorso che sia stato per me fortunatissimo, anche se evidentemente non era destino che diventassi un violinista, come tutto faceva viceversa sembrare nei primissimi anni del mio lavoro. Ho cominciato bambino piccolo, perché 5 anni e mezzo circa, a studiare il violino, e come violinista sono entrato con un anno di anticipo sulle regole al Conservatorio Cherubini nella classe di Gioacchino Maglioni, il quale, oltre che essere il giusto caratteraccio che si richiede dell'insegnante severo, era uomo di grande generosità, oltre che umana, artistica. Compositore non tanto segreto, ma rassegnato, creatore di strumentisti, cito soltanto Roberto Michelucci per dire, destinati a un futuro importante, e lui stesso rinunciatario nel senso del concertismo per un rigore incontentabile. Viveva in un bellissimo palazzo vicino a Piazza Santa Croce a Firenze, nel quale all'interno del palazzo lui stesso aveva un salone da concerti, e su questo salone si leggeva una lapide che riguardava un passaggio relativamente recente di Rossini in quella stanza, in quei luoghi. E lui stesso lavorava in bagno d'inverno, perché era l'unica stanza realmente riscaldabile. E gli allievi, soprattutto quando si affezionava, e credo che nel caso mio è stato un affetto molto forte, li metteva in questo salone, approfittando dell'unico raggio di sole quando c'era, che da una persiana accostata si muoveva lentamente, e mi faceva studiare con le spalle al salone, rivolto al muro, il leggio attaccato al muro, e c'era questa porta del bagno aperta. In realtà credo che le prime polifonie dal punto di vista di politonalità le vivessi in quel momento. Io ero uno studente estremamente distratto, incapace di durare a lungo nella noia dell'esercizio, ma sempre sollecitato dall'invenzione, che il colpo d'arco, le cose che ero riuscito ad ottenere fin da bambino, perché quando ancora non decenne dissi sfacciatamente in esame che chiedevo di essere messo nella classe del maestro Maglioni, mettendolo in grande imbarazzo, ma riuscendo in questo scopo, così fe con Dalla Piccola. E lo feci per curiosità più istintive che per altro. E per quanto riguarda Dalla Piccola, un altro ricordo di amicissiano, il ritorno da teatro di mia madre, la quale non era musicista assolutamente per niente, moglie di un usciere comunale, che però, come molti uscieri comunali all'epoca, faceva anche come straordinario la maschera al teatro, e dunque avevamo, oltre che dei biglietti di favore, una frequentazione costante sia col comunale che con la Pergola. Alla Pergola mia madre, assieme alla mia primissima insegnante di violino, Margherita Castellani, erano andate ad ascoltare la prima mondiale del Volo di Notte, che in un subbisto di fischi si ebbe gli applausi di mia madre, della signora Castellani e di pochi altri coraggiosi, i quali niente affatto convinti dalla bellezza musicale, ma inteneriti dal povero autore subissato di fischi, da questo ometto, tornarono a casa dicendomi: ma non è che ci abbiamo capito un granché, però lui era tanto simpatico e si meritava. Reazionario il bimbo invece, il quale sentenziava che senza dubbio era una musica che non aveva nessun valore, visto che questo sentivo dire nei corridoi del conservatorio. La conseguenza fu che chiesi di entrare nella classe Dalla Piccola, il quale la mattina sbrigava tranquillamente corrispondenza, faceva lezione quando la faceva solamente sulle cose che lo interessavano, la famosa serie del Don Giovanni, e insisteva molto su Mozart. Come tutti gli insegnanti che ho avuto di poi, arrivando fino a Max Deutsch e anche a certi rapporti con John Cage, aveva la somma virtù di non aver l'aria di insegnarti i programmi scolastici, ma di farti assorbire cose che poi te le ritrovi 40 anni dopo, senza essertene reso ben conto, soprattutto in quel momento lì. Tra il mio insegnante principale, io il violino stava seguendo già una china discendente, sicuramente me ne stavo allontanando, difatti non ancora quindicenne, decisi di non continuare più, e credo di aver dato un sincero dispiacere a Maglioni, il quale però fu anche il primo a rassicurare, a reagire con la mia famiglia, con mio padre e mia madre, dicendo: probabilmente ha delle qualità come compositore e noi avremmo una grossa responsabilità se non gli consentissimo di verificarlo, se lui non si sente più tanto di suonare il violino, che vada da Lupi a studiare l'armonia e il contrappunto. E dunque ero già entrato nella classe di Roberto Lupi. Metterei l'accento su Roberto Lupi, il compositore più che ingiustamente dimenticato, non soltanto per la finezza del compositore, ma per il fatto che Roberto Lupi allora ebbe il coraggio, assieme a diversi altri musicisti e studiosi in giro per l'Europa, forse anche oltreoceano, di mettere in piedi un sistema armonico, che lui battezzò armonia di gravitazione, alternativo, o forse è troppo poco dire, o è utilizzare un termine troppo corrivo, profondamente diverso da quello di Schoenberg, questa armonia di gravitazione. E Lupi ebbe anche il coraggio di sfidare una corrente che allora si voleva subito, nell'immediato dopoguerra soprattutto, estremamente concreta e determinata a vedere le cose nel loro aspetto sciacuratamente scientifico, e lui ebbe il coraggio di legarsi a tutta un'altra corrente di pensiero che soprattutto in quel momento non era certamente ben vista, che era quella della teosofia, e dunque di attribuire alle sue teorie musicali, secondo me tutt'oggi di estremo interesse, significati esoterici, significati di natura mistico o misticheggiante, che hanno contribuito, invece che a metterli nel giusto rilievo, a porli nell'ombra o nella penombra o nel controluce sospetto per le mode di allora di fronte al mondo musicale e intellettuale più generalmente. E concludendo su questo tema, cercando di concludere, ho citato un quartetto di persone di sfuggita, la Margherita Castellani, quindi Gioacchino Maglioni, infine Roberto Lupi e l'incontro con Dalla Piccola. Trovo che queste quattro personalità, e non sono le sole con le quali ho studiato, salterebbe fuori un quadro di qualcuno che non solo ha studiato normalmente come si deve, ma come si deve nel doppio senso del termine, con tutta una serie di insegnanti estremamente seri e impegnati, e che il passaggio, il salto poi verso Darmstadt lo faceva sì per, di sua propria iniziativa, con le proprie gambe, e forse addirittura spinto da una curiosità altra che da quella tipicamente musicale, ma che grazie a queste persone, queste quattro persone delle mie basi, in fondo non ho smesso di studiare mai, e sono arrivato a Darmstadt e sono arrivato ad altre prospettive con l'idea dello studio estremamente forte dentro di me, tanto è vero che arrivando rapidamente al giorno d'oggi, ad esempio in questi 5 anni di lavoro qui a Genazzano, tutte le manifestazioni di qualunque natura siano, io intendo chiamarle studio, e ho riprodotto un valzerino dell'epoca, cioè di quando ero ragazzo, che non avevo mai avuto il coraggio di notare in senso scritto, ma che mi sono portato dietro come tradizione orale e che ho notato soltanto pochi anni fa, chiamarlo appunto Studia Sempre, memore di un ammonimento della Margherita Castellani, alla quale quando chiesi le spiegazioni sul significato delle due fenditure sugli strumenti ad arco, questa SF arrovesciata dal lato destro, e mi disse che significavano studia sempre. Così si conclude Due voci, un lavoro del 1958 per soprano, onde Martenoi Orchestra di Silvano Bussotti, ed è dalla fine degli anni 50 che Bussotti fa iniziare ufficialmente il catalogo delle sue opere, per l'appunto con Due voci, Breve e i celebri Five Piano Pieces for David Tudor, 5 pagine grafico-musicali che segnano il definitivo ingresso di Silvano Bussotti in un terreno di indagine e di sperimentazione che Cage, parallelamente in America in quel periodo, stava sviluppando, un Cage conosciuto proprio in quegli anni a Darmstadt. Ecco, l'arrivo a Darmstadt direi che segnava un allontanamento abbastanza brusco, viceversa, dall'ordine dei 12 suoni o 12 eterni, come mi è capitato di chiamarli qualche volta, e direi ancor più che brusco e polemico, se si vuole, in questo guidato dall'incontro, senza dubbio, tra quelli fondamentali nella mia vita, che mi piacerebbe oggi poter chiamare compagno di studi con Heinz Claus Metzger, a tutt'oggi forse uno dei più radicali studiosi di musica esistenti, il quale si poneva in polemica non soltanto nei confronti della dodecafonia, ritenuta già allora qualcosa del passato, ma della serialità in se stessa, e anzi mi indicava come compito specifico del mio lavoro quello di superare il momento seriale che stava conoscendo proprio in quegli anni, viceversa il suo apparente trionfo. Non si è ancora nominato Boulez, ma mi domando se proprio Boulez non fosse l'incontro fondamentale di quegli anni, che era lì presente e in polemiche cocenti con il gruppo Cage, Metzger, Tudor, per spingermi a fare il corrispettivo con molta vanagloria di quello che Schoenberg avrebbe fatto con la tonalità nel dar luogo, ancora prima che al sistema dodecafonico, a una consapevolissima atonalità. Dopo la serialità avrei dovuto dar luogo ad una musica aseriale. Ora, di fatto, la finestra per la quale determinate cose cacciate via dalla pratica rientravano nella mia vita, nel mio lavoro di musicista, ebbe tutto l'agio di sembrare cageana in maniera molto pronunciata, piuttosto che boulesiana, no? Per intenderci, e forse per farsi anche tentare di farsi capire un po' più semplicemente da chi ci ascolta, molto più gestuale che non invece speculativa, che non intellettualistica. E non fu la musica, fu il disegno, fu il fatto che osservando alcune pagine e alcuni fogli di parecchi anni prima, dove avevo semplicemente disegnato, influenzato allora tantissimo dall'amore sfrenato che avevo per un pittore come Paul Klee, e vidi che questi stessi disegni li avrei potuti, attraverso i primi fogli di carta trasparente che facevano capolino allora in Europa, trasporre fedelmente su carta pentagrammata, e che quelle parti di questi disegni che andavano a coincidere con dei pentagrammi, con sistemi che John Cage a me non aveva ancora spiegato, ma che avrebbe spiegato un anno dopo, e che dunque stava sperimentando lui stesso in America all'insaputa che altri da qualche altra parte del mondo lo stavano facendo, si potevano misurare, dunque leggere, dunque tradurre in informazioni di frequenze, di altezze, in note, come si direbbe volgarmente. L'idea di poter leggere al pianoforte o poter trascrivere su pentagramma dei segni apparentemente avulsi da ogni significato risaliva al fatto che teoricamente almeno si può sostenere come punto linea siano i dati determinanti di qualunque ideogramma, di qualsiasi lingua e di qualunque epoca. E quando poi John Cage illustrò per la prima volta a Darmstadt le sue variation delle varie numerazioni, dal 1 a adesso non so quanto, i famosi rettangolini di carta attraverso i quali, trasparenti ancora, venivano lette le imperfezioni di un altro rettangolo di carta alle quali veniva attribuito il segno per una frequenza, per un'altezza di suono che veniva interpretata e quindi tradotta in gesti pianistici, vocali, strumentali, faceva un'operazione molto affine, direi più americana come stile, più legata agli artisti che si trovava attorno, In me, molto più giovane e fiorentino, e dunque tra l'altro con un fratello maggiore di 6 anni e uno zio maggiore di parecchi anni, tutti e due importanti, lo zio importantissimo pittore, legata alla pittura con immagini di tutt'altra natura, si direbbe, per semplificare, come è stato molto detto, molto più barocche, molto più ricche di informazioni. John Cage, a volte folli con un solo suono, o senza addirittura suono, un solo rumore. Io, horror vacui della pagina bianca, e dunque questa pagina zeppa di informazioni e indicazioni. Di fatto era naturale che ci incontrassimo, ed era naturale che il punto d'incontro di tutto questo fosse David Tudor. David Tudor, personaggio medianico, vorrei poter dire, il quale, dotato di una tecnica prodigiosa che negli anni a venire si vide come era un po' il fatto naturale dei musicisti americani. L'America ha sempre sfornato una quantità di pianisti che facevano impressione per l'abilità tecnica, e Tudor poteva rimanere uno tra gli altri se non avesse avuto poi dentro di sé anche un cervello e una sensibilità eccezionali. Lui era realmente in grado, perché lo posso testimoniare, di leggere, dico leggere nel senso con la sola vista, partiture spartite di grande complessità di scrittura, e di mettersi al pianoforte e quindi eseguirli, cosa che avrebbe costato a un altro pianista normale mesi di studio, eseguirli alla perfezione a prima vista, però dopo averci meditato e averci scritto sopra dei fogli fittissimi di numeri, di diagrammi, delle analisi che lui faceva per se stesso, che ha fatto per mie composizioni, per composizioni di John Cage. Fortunatamente è stato così carino da regalarmeli, e dunque ho dei reperti straordinari anche dal punto di vista visivo. Perciò direi che a quell'epoca era, in una maniera meno consapevole di quanto non sarebbe adesso, era molto forte nel mio modo di lavorare il compenetrarsi del segno, almeno in questa ambivalenza pittorica e musicale assieme. Come un'isteria ragionata, vi sono pagine di alcune partiture musicali dove il segno, infittendosi all'inverosimile, invade per così dire ogni millimetro del foglio, svelando un orror vacui nell'animo dell'autore, turbato e imbarazzante. Nel secolo scorso poterono sembrare tanto estreme alcune pagine finali della nona beethoveniana, ancor più addietro parecchi fogli barocchi. A me la pagina viene fin troppo spesso e da sempre carica inverosimilmente. Non c'è stanchezza d'anni che valga a diradarne la mania del pieno, e rarissimamente un pentagramma respira l'aria delle pause. Però la musica si dice sia scritta prima di tutto per chi dovrà eseguirla. L'occhio colmato di eleganti arabescati ideogrammi, l'interprete dovrà mettersi a decifrarli prima, studiarne il meccanismo, finalmente eseguirli alla perfezione. La fatica si dimostrerà spesso straordinaria, con la complicazione che certe parti si sarebbero potute scrivere in maniera molto più semplice, con risultato anche migliore. Migliore? Ecco il dubbio, lo scherno. Una tensione tanto smodata finisce per imprimere il suo fatale sfogo a chi esegue. Ne risulta di certo una specie di dispetto sublime, giungendo a compimento con rancore a corto di fiato, letteralmente, e in preda alla furia. Tenuto conto che in genere mi va di scrivere per diversi strumenti che dovranno simultaneamente lanciarsi ciascuno sul precipitare delle personali acrobazie, annullando tali simultaneità, l'eventuale bella figura che almeno il virtuoso potrebbe fare con lo sfoggio di una tecnica brillante recepita dal pubblico nel relativo silenzio, ma di certo irrimediabilmente sommersa entro il formicolio di altrettali bravure consumate assieme, tutte in una volta. Difficile immaginare il dispetto sordo che può esplodere per me in alcuni esecutori, che non sanno leggere nel minuscolo spazio lasciato fra le righe di una così fitta grafia la forma esagerata di rispetto sentita dall'autore per chi nelle sue mani per primo porta il destino di significare a mezzo musica sensazioni e pensieri vivi. Rispetto esigente che la congiura del silenzio non placa. Poche righe tratte da una pagina di Bussotti del 1978 estratta da I miei teatri, una raccolta di saggi e riflessioni a largo spettro di Silvano Bussotti pubblicato nel 1982 e che abbiamo fatto precedere dall'ascolto di poche battute dagli estratti da concerto della Passion Selon Sade. Gli estratti erano del 1979, mentre la Passion Selon Sade è un lavoro del 1965, un lavoro con cui si inaugura la fase più propriamente teatrale di Bussotti. È senz'altro uno dei lavori più celebri del suo autore e che suscitò all'epoca non poche polemiche. In effetti all'epoca fu divertente perché per ragioni opposte il caso volle che a Palermo la prima mondiale avesse luogo il giorno di Santa Rosalia e che dunque l'attuale arcivescovado protestasse con tutte le sue forze che un'opera dedicata al divino marchese blasfema contro ogni dire e è configurata ancor più blasfema perché ispirata all'idea della passione che fa pensare immediatamente alle passioni classiche, dunque di nostro Signore Gesù Cristo, non si è mai detto che fosse eseguita a Palermo. Devo dire che la parola passione rimaneva, ma era la parola secondo chi non poteva rimanere. Allora fu asterisco secondo Sad, cioè giustamente mi correggo, la parola passione fu tolta a Palermo. Viceversa, a Parigi, dove gli ultimi eredi della famiglia di Sade avevano intentato processi contro Peter Weiss all'epoca a causa del Marat Sade, una sentenza di un tribunale impediva a Boulez, che l'aveva programmato nella sua serie di concerti del Domaine Musical, di mettere sui suoi manifesti la parola passion, e allora diventò asterisco selon Sade. Io scrissi un articoletto che forse si ripubblicherà proprio adesso, che Jean-Louis Barrault all'epoca accolse nelle pagine della sua rivista, intitolato Asterisco secondo X, nel senso che i miei titoli da parti opposte venivano censurati e per ragioni opposte. E c'era un dato abbastanza interessante per cui il testo non si riferiva, il testo che allora una quasi debuttante Cathy Berberian cantò per la prima volta, Non si riferiva direttamente, non dico a testi di Sade, ma neanche a episodi della sua vita, bensì era un poema antichissimo di Louise Labbé, poetessa del quale alcune leggende dicono fosse una sorta di antenata della, niente meno che della Laura di Petrarca. E sulla base di questo poema, oggi, per il Festival d'Automne a Parigi e per il Bicentenario della Rivoluzione, in quest'idea di integralità sadiana, riprendo la passion e la completo, la passion più che ogni altro mio progetto. Quasi tutti, devo dire, sono dei progetti che nascono per frammenti giustapposti, che quasi, come è stato osservato, c'è Bortolotto che insiste molto su questo tema, non si dà che debbano essere conclusi, che proprio la loro natura, la loro essenza sta in questa frammentarietà. La frammentarietà di Passion, che già all'epoca era composta da numerose sottocomposizioni, tableau vivant per due pianoforti, il solo per tutta una serie di strumenti, rara, dolce per flauto, diritto, eccetera, eccetera, tutte queste piccole composizioni incrostate attorno al corpo centrale di Passion non compiuvano, co non, non diciamo esaurivano il materiale del progetto. Né penso di esaurirlo con Integral Sade, il quale, lungi dal voler essere un titolo che significa l'integrale, dopodiché sarà finalmente conchiuso, vuol significare invece qualche cosa d'altro, un'integralità di atteggiamento. Dopo gli echi della ventata critica che suscitò la Passion Selon Sade, ecco che Bussotti esordisce come regista teatrale con un lavoro di Antonio Veretti, I Sette Peccati, e in quelle occasioni si ritaglia anche una piccola parte da attore. Segue quindi una seconda proposta per la regia di un Gianni Schicchi a Palermo. Il figlio di Angelo Musco, il compositore siciliano, venne a trovarmi con l'aria di una provocazione, dicendo: so già che mi dirai di no, però io, in fondo, domandare è lecito, ti chiedo se saresti disposto di venire al Teatro Massimo di Palermo per fare la regia di un'opera di Puccini. Ed era il Gianni Schicchi, il quale appunto andava con la ripresa dei Sette Peccati di Veretti, e ci fu poi aggiunto un lavoro breve, il Billy Budd, non quello di Britten, ma quello di Ghedini. E io viceversa reagii in maniera entusiastica. E ricordo che ci fu allora, mi dispiace di insistere con l'aneddoto, ma mi sembra che forse, oltre che più piacevole da ascoltare alla radio, può essere illuminante, assisteva alle prove, a mia insaputa, Gianandrea Gavazzeni, il quale si immaginava, dice, chissà questo qui, si leggevano articoli di tutte le razze, reisme sul mio lavoro di musicista, cosa farà, come regista, come ambienterà il Gianni Schicchi, e rimase fortemente impressionato da fedeltà millimetrica che dimostravo, contrariamente a tutti i modi usuali di rappresentare il Gianni Schicchi, nei confronti e della partitura, del libretto, dell'ambientazione. Nel senso che Gianni Schicchi si è sempre rappresentato, quasi sempre, in una sorta di neomedievalismo del tutto improprio, mentre con molto spirito 1299 è la data che il librettista e Puccini hanno scritto, e dunque mi sono tirato indietro all'epoca duecentesca, da buon fiorentino, rileggendo Giotto e tentando di metterlo in scena, in particolare questo quadro stupendo che è La cacciata dei demoni da Arezzo. E ho contato i demoni, erano sette, come i parenti di Gianni Schicchi quando alla fine vengono cacciati appunto da Gianni Schicchi, i parenti da lui imbrogliati, e li ho fatti volare nella scena, trasformati in demoni. E devo dire che questo spettacolo ebbe un successo enorme. Parecchi anni dopo la Scala mi ha chiesto di completare il trittico, infatti l'edizione del trittico in questi ultimi 10 anni si è vista qualche volta alla Scala, e che è andata anche in, ormai devo aggiungere, sciaguratamente in video, perché sono molto brutti dal mio punto di vista, però pare che abbiano un'enorme diffusione. Ci fu questo primo incontro con Giacomo Puccini, che ha fatto di me inopinatamente un regista e scenografo e costumista d'opera lirica e d'opera di tradizione e d'opera di repertorio. Perché dico inopinatamente? Perché le intenzioni erano tutt'altre. Il desiderio, l'impulso era quello di rappresentare il mio proprio teatro e ostinatamente continuo a crederci ancora e ad ogni spettacolo che trascorre dico basta, questo è l'ultimo, la prossima opera che metto in scena o è mia o non la metto in scena. E questo dura oramai da una buona trentina d'anni e non voglio fare pronostici se non altro per ragioni di scaramanzia. Fatto sta che le opere di Puccini mi è capitato praticamente di mettere in scena quasi tutte tranne un 3-4 titoli e di diventare direttore artistico del Festival Pucciniano di Torre del Lago per un numero di anni superiore a chiunque altro, perché sono stato ben 5 anni, e veramente di crearmi addosso una veste alla fin fine anche di organizzatore culturale, che non era certamente nello spirito e nei semi di quei quattro insegnanti famosi di cui abbiamo parlato prima. Rara Requiem, da cui abbiamo ascoltato un frammento, è un lavoro scritto sul finire degli anni 60 e che poi Bussotti inserirà in Lorenzaccio, altro lavoro destinato alle scene. Sono anni in cui si fanno insistenti le tematiche legate alla problematica dell'impegno in musica e nel fare arte in generale. Ma come visse l'allora quarantenne Bussotti le nuove urgenze sociali e politiche? Ma io nel 72 andai in scena con Lorenzaccio. Lorenzaccio era l'ipermelodramma romantico danzato, lo chiamavo, in 23 scene, 2 fuori programma, 5 atti, eccetera, eccetera. Era un'opera monumentale che ebbe anche la sua prima uscita, la sua prima traduzione in un'altra lingua, cioè fu tradotto in tedesco e rappresentato per pochissime volte, con un insuccesso clamoroso, all'Opera di Stato di Amburgo. E Lorenzaccio a Venezia rappresentò un evento che secondo me rispondeva anche a a questi momenti politici molto precisi, giustamente rammentati in maniera precisa, perché era in fondo l'esaltazione, sia pur romantica, dell'eroe regicida, dell'uccisore del tiranno, anche se poi si scopre, e ho fatto tutto per sottolinearlo, che le ragioni per cui il tiranno veniva eliminato per le mani di Lorenzaccio, dalle mani di Lorenzaccio, erano tutt'altro che politiche, tutt'altro di natura patriottica, erano di natura squisitamente solipsista e io aggiungerei anche torbidamente erotica. E dunque, come per citare un altro caso che viene immediatamente allo spirito e che si può ritrovare nelle musiche del mio grande fratello maggiore Luigi Nono, la fine di García Lorca, ad esempio, ai nostri tempi. Ora, Lorenzaccio diede seguito a composizioni più manifestamente, oggi diremmo, impegnate in senso ideologico, vedasi politico, in particolare I semi di Gramsci, una composizione per quartetto d'archi, allora il quartetto, il celebre quartetto italiano, e orchestra, laddove il quartetto veniva inscenato, anche se non materialmente parlando, non su una scena di teatro con costumi e luci, ma su un semplice auditorium, ma veniva inscenato accuratamente come essendo Gramsci in carcere, che coltivava sulla finestrella della prigione dei fiori, degli erbaggi, delle rose anche, dentro la prigione dell'orchestra sinfonica, un quartetto imprigionato in un'orchestra. Il seguente appuntamento operistico si avrà nel 76 con Nottetempo al Lirico di Milano, un lavoro del quale si avranno varie versioni ed è l'unica partitura operistica che fino ad oggi è stata licenziata dal suo autore. Ma per non tralasciare un altro campo di interesse di Bussotti, il balletto, va almeno citato il Bear Crystal del 1973, il Cristallo di Rocca, una importante pagina sinfonica con uno straordinario organico orchestrale. Altro balletto, oggetto amato, che accompagnava Nottetempo, che abbiamo appena ricordato, in quella stessa serata al Lirico nel 76, e in oggetto amato Bussotti fa uso per la prima volta del nastro magnetico, nastro su cui è incisa una elaborazione dei Pièce de Chair 2, del 1958. Una sigla accompagna ormai dal 76 tutta la produzione di Bussotti, il Bussotti Opera Ballet, ovvero Bob. Io ricordo benissimo Grassi nel suo ufficio, al quale paventava un po' di andare a proporre una cosa così. Si aspettava da me, come tutti se l'aspettano, anzi tutti cominciano a essere un po' delusi perché si fanno col tempo, ahimè, meno numerose le cosiddette provocazioni. Però dico, gli vado a dire che vorrei che questo spettacolo si chiamasse Bussotti Opera Ballet. Faccio notare che all'epoca, nel 76, i termini compositi, fatti di più parole legate assieme, erano del tutto inediti, mentre oggi non c'è infinitesimale ditta che costruisce scarpe o guanti che non debba trovare almeno due parole da mettere assieme in tutti i negozi, dappertutto c'è questa diffusione a tappeto di questo modo di fare. Dunque mi si consente la civetteria di trovarmi anticipatore persino in questioni del genere. E, oscillando perennemente tra l'opera e il balletto, e nel tentativo anche di far tutt'uno, tentativo non mio, che dietro le mie spalle nella storia ha esempi illustri che risalgono a Monteverdi quantomeno, volevo cercare una maniera per stigmatizzarlo, per dargli una cifra. E allora pensai che l'iniziale Bussotti, opera, ballet, diventavano la parola Bob, che era anche un personaggio molto americano, un modo e altrettanto napoletano di appellare in diminutivo una persona, un personaggio, e dunque dissi quasi scherzando a Grassi, dico: Paolo, ma cosa ne pensi se questo spettacolo lo chiamiamo Bussotti Opera Ballet? E lui, credo che reagì niente affatto da sovrintendente della Scala, ma da abilissimo costruttore di immagini per lo spettacolo, e disse: ah, ma senz'altro, l'idea mi piace tantissimo, però dice non deve essere questo solo, mi devi promettere che per sempre tu lo farai, si chiamerà, anzi lui queste promesse tentava addirittura di farle trascrivere in contratti e per certi aspetti ci riusciva anche. Ecco che nacque così Bussotti Opera Ballet, che è una sigla, vorrei dire un'insegna quasi di un locale, quasi di un luogo ideale, il luogo che forse sorgerà qui a pochi metri da dove ci troviamo in questo momento, un'insegna che richiamasse a tutto un assieme di attività che poi, secondo me, sarebbero quelle che un artista è in dovere di svolgere. A questo punto del nostro incontro con Silvano Bussotti è forse il momento di tentare di rendere manifesti, espliciti riferimenti sia musicali sia altri, ovvero letterari, teatrali, eccetera, ma forse è una tematica troppo sconfinata. È sconfinata, ma si può circoscrivere anche perché ce ne sono alcuni di costanti, direi. E in quel dovuto libertinaggio dell'artista esistono dei punti ricorrenti. Per me in musica non c'è alcun dubbio che si tratti di Gustav Mahler. E per fortuna, proprio per il rotto della cuffia, ho delle testimonianze in questo senso scritte e pubblicate, tra l'altro in una lingua che mi è quasi totalmente ignota, che è l'inglese, perché sono tra i pochi che non lo sanno. E, un mio intervento su Mahler nella rivista internazionale di musicologia, che datava di un paio d'anni prima della Mahler Renaissance, prima di questa poi enorme e enfatica mania per Mahler. Per quanto riguarda la musica, senza dubbio è Mahler, credo di aver già citato Monteverdi, e vorrei non dimenticare dalla piccola, nei per me quasi ancora viventi, cioè nei musicisti del nostro tempo. Non parlare di Schoenberg e Stravinsky, bisogna parlarne in coppia, come non va parlato in coppia viceversa di Ravel e Debussy, è quasi provocatorio. Non credo di sorprendere se dico che invece mi è molto più difficile individuare qualche punto fermo in letteratura, visto che davvero il mio leggere è sterminato dall'età della ragione, da quando sono riuscito a incominciare a leggere, e direi a me anche il mio scrivere. E dunque voglio citare soltanto forse Giacomo Leopardi per il semplice fatto che mi sto preparando ad un lavoro su Leopardi, che è meditato da tantissimo tempo, un lavoro sull'infinito che dovrebbe essere anche scenico, e nel quale, a fronte di una vocalità che spero spero mi riesca a dare il meglio di quanto su questo campo del canto e della voce sono riuscita ad imparare in tutti questi anni, vorrei che si vedesse questo gobbo brutto, antipatico, cattivissimo, che si gonfiava di gelati e prima di morire per la giusta epidemia che si meritava. Per il teatro Artaud, ma se dicessi che viceversa era Goldoni, che era il teatro Veneto, che era la commedia dell'arte, forse sarei più sincero. Artaud certamente come ideologia e come spinta verso un teatro futuro che peraltro né lui né ancora nessun altro, secondo me, hanno compiutamente realizzato, ma diciamo il fatto anche della circostanza per cui in famiglia mi è capitato per tanti anni di oscillare tra una parlata fiorentina pronunciatissima, non toscana ma proprio fiorentina, e padovana ancora più pronunciata, tant'è vero che posso ancora dilettarmi in giochi di prestigio quando ci sono persone che non mi conoscono e mettermi improvvisamente a parlare padovano e uno si volta per vedere chi ha parlato. E insisto un attimo sulla lingua di Goldoni, che ha come matrice, non dimentichiamolo, quella di Ruzzante, perché tutti sanno che il Veneto è una lingua straordinaria, assieme al friulano, che poi ha dato luogo al fenomeno letterario Pasolini, non va dimenticato. Forse di Pasolini si ricorda volentieri tantissimo altro, ma si mette in ombra quello che secondo me rimane viceversa la cosa più fondamentale. Per fortuna sono confortato dall'opinione non solo di Moravia ma di tanti illustri letterati, cioè la letteratura di Pasolini nasce con radice friulana, così come la radice veneta di un certo discorso letterario e teatrale è fondamentale. Oggi ci sono delle grammatiche della lingua veneta di un tale interesse e che a me poi interessavano ancora di più perché in compenso la non conoscenza dell'inglese mi porta ad una conoscenza del francese, credo di poter dire approfondita, che è una lingua che con il Veneto ha tantissimi vocaboli, tantissime forme in comune. Ecco, forse il punto più teatrale della mia immaginazione resta ancora da esprimermi, da esprimersi. Ci sono composizioni, in particolare una satiresca del 64, mai andate in scena, mai compiute, e che rinvio sempre, che forse un giorno riuscirò a portare sulle scene, nata da un canovaccio della commedia dell'arte, ma soprattutto nata per darmi l'occasione di essere finalmente quello che avrei voluto sempre essere, e forse la sola cosa che mi avrebbe divertito del tutto, che era quella di fare l'attore. Del 1980 è Le Racine, piano bar pour Phèdre, il cui soggetto è la Phèdre di Racine, che a sua volta è tratta dall'Ippolito di Euripide, un'opera questa Phèdre di Bussotti in cui il tema della bellezza assume una particolare valenza. Al giorno d'oggi, per oggi intendo proprio oggi, se non la data di oggi, i tempi, i giorni che stiamo passando, mesi, questi ultimi anni, se c'è nel campo delle arti, che a volte vengono dette arti dello spettacolo, qualche cosa che si tenta con tutti i modi di combattere, di velare, di nascondere, è la bellezza. E forse sollecitati da un mondo in cui di bellezza se ne vede veramente così poca, un mondo così deturpato, per cui senza dubbio tutto questo ha un senso. Io continuo in maniera diciamo ostinata a credere che viceversa, soprattutto chi si ritiene in grado di dipingerla, quantomeno la bellezza, esso dovere rappresentarne più che può. Esso dovere rammentarne l'esistenza. Ora, in Phèdre, in questa particolare opera di Racine, e direi nel linguaggio letterario, nell'endecasillabo di Racine, e questo tema centrale è espresso in una maniera così sconcertante e così profondamente vera, e così artefatta, cioè quella profondità che raggiunge l'arte quando è totalmente artefatta, da lasciarmi una profonda impressione, che mi lasciò in primis spettatore poco più che ventenne, nei suoi primissimi viaggi in Francia, che ebbe l'occasione appunto di vedere una Phèdre messa in scena da Jean Vilar con Maria Casares nella parte principale, che mi lasciò sconvolto e che mi decise a mettere in musica un bel giorno. Poi passarono molti anni e diedi corso, fedele come ho dimostrato di essere in altri casi, a questo progetto. Il personaggio di Ippolito è semplicemente il simbolo della bellezza che deve obbligatoriamente negarsi, in quanto che dal momento che si può attingere a questa bellezza, se ne vede immediatamente la pochezza, la si deturpa e si svanisce nelle nostre mani. In fondo, diciamo, il substrato filosofico ideologico è semplicemente questo. E è chiaro che renderlo drammaturgicamente credibile fu già per Racine un problema non da poco, anche se poggiava in fondo su miti e precedenti drammi classici, di cui i suoi drammi non sono stati spesso altro che delle trascrizioni in linguaggio per lui moderno, e io dovevo e volevo seguire questo esempio. Cosa succede? Succede che dilatando con la perorazione dell'intervallo musicale, della frase melodica, la frase detta, anche se poi portando la mia Fedra, il mio Racine ai suoi veri destini, cioè quelli di diventare un'opera in tre atti per un grande teatro e chiamarla Fedra, credo per la prima volta ho portato a compimento un progetto specifico, quello di inserire, oltre ai normali cori cantati, un coro parlato, ma non come si è stato fatto tante volte, ma un coro che definisco di attori in senso pieno, i quali attori però non sono chiamati a recitare delle battute da soli o in gruppi o corali, ma queste battute a loro volta, pur rimanendo tali, cioè pur rimanendo verbo nudo e crudo, non rivestito di suono, debbono essere dette con accentuazioni ritmiche e con entro precise discipline che sono quelle della musica. E secondo me questa prima esperienza fatta l'anno scorso qui al Teatro dell'Opera di Roma è stata senz'altro estremamente positiva e uno dei, a livello personale, considero uno dei massimi raggiungimenti, perché per la prima volta riuscivo ad avere 14 attori che esprimevano se stessi e allo stesso tempo una massa di 14 persone. Tra l'altro mi diverte gran parte di questi, quelle poche o meno poche volte che riesco ad andare al cinema, di vederli comparire in un sacco di film che sono di moda, da qui La Cavani ad altri, proprio in questi tempi, e cioè di essere riuscito a collezionare una serie di corpi, una serie di volti, una serie di voci, di vocalità, di atteggiamenti che hanno dato vita a un fatto senz'altro nuovo. Chiusa questa parentesi un po' collaterale, con Fedra prima e con l'ispirazione immediatamente dopo, che solo dal titolo vuole essere un interrogarsi su un'altra forma della bellezza, chiedersi se effettivamente ci sia un substrato che tra virgolette mi si lascerà chiamare divino, che ispiri all'artista che ancora tra virgolette mi si permetterà di dire, definire grande, cioè al grande artista, un suo discorso da fare al suo pubblico, e un suo discorso di arte e di bellezza dunque in assoluto. Ecco, se possiamo chiudere l'anello tornando agli inizi di questo bambino che ha avuto la fortuna di incontrare la musica prestissimo, di avere questa insegnante che severamente li ammoniva di studiare sempre, e se posso evocare a questo punto le figure del babbo e della mamma, si deve dire con un accento toscano, cioè questo umilissimo usciere comunale che però andava quasi tutte le sere a teatro, che adorava il melodramma e che sognava che il figlio ne scrivesse, con questa madre che da giovane madre per suo figlio più che cucire camiciole e cuciva dei costumi di teatro, tutte queste cose che in genere danno luogo alle peggio persone, che in genere poi costituiscono per il resto della vita una schiavitù perenne, e forse nel mio caso hanno finito per dar luogo a un punto d'incontro sul palcoscenico di quelle muse, 7 o 9 che fossero, di quelle arti belle o brutte che si vogliano rappresentare, che costituiscono nel loro assieme il viso del musicista, la sua testimonianza, la sua parola e in fondo la bellezza che lui forse riuscirà a rappresentare per i suoi simili. Ancora qualche minuto prima della conclusione di questo breve incontro con Silvano Bussotti, pochi minuti nei quali vogliamo inserire alcune brevi considerazioni di Bussotti sull'insegnamento e un ultimo ascolto musicale, un estratto dalla suite orchestrale del 1980 dedicata a Miró. Il rapporto con i giovani musicisti, il rapporto che io personalmente ho il doppio privilegio di poterlo fare qui a Genazzano, al Bussotti Opera Ballet, che come avremmo intuito è diventato in un certo senso un'istituzione, e a Fiesole da Piero Farulli, tra l'altro tra i primissimi interpreti del famoso quartetto Gramsci per quartetto orchestra, da Piero Farulli alla Scuola di Musica di Fiesole. Ecco, questo fatto dell'artista impegnato quasi quotidianamente in un confronto con quelli che vengono da molto più lontano e da molto più vicino, culture raffinatissime e culture di una estrema rozzezza, in poche parole da chi viene ad imparare, a volte armato di coltello, cioè con molta polemica, a volte adorante con molta passività, altre volte, che è il più frequente, freddamente perplesso, ma comunque attento. Ecco, probabilmente questo è il discorso fondamentale. Che poi ci riporta a un altro tema sul quale abbiamo insistito, rischiando di diventare noiosi e fastidiosi, ma sperando ci sia sempre qualcuno che ha finito per rimanere ad ascoltarci, che è quello dello studiare davvero sempre, come indicano i violini, viole, violoncelli e contrabbassi. Thank you. Avete ascoltato il pensiero musicale contemporaneo tra presente e memoria. Incontri con i compositori del nostro tempo di Emanuele Pappalardo.